vero che Mario Balotelli a gennaio arriva alla Juve? Perché sinceramente a me da juventino, anche se me lo regalavano, non me lo prendevo. Da questo momento, lo dico quasi quasi credendoci, il Palermo vincerà lo scudetto. Volevo risollevare un attimo il livello del colloquio dopo aver sentito Cassano, perché veramente non si può sentire. Tutti convocati di Carlo Genta. Oggi con Franco Pietrelli in redazione e Filippo Aureggio in regia. So già che vi farò molto arrabbiare, ma cosa ci volete fare? Vi convoco lo stesso, tutti. Mi alzano un cartellino rosso dalla regia, non mi importa. 800240024, siete davvero bravi, finite in ogni nostra sigla. Allora, la Juventus scopre che l'Europa è un altro film, che dagli spaghetti western del campionato italiano si passa al gladiatore. Primo stupido paragone che mi viene in mente. È una competizione diversa fisicamente, tatticamente. C'è da domandarsi se i livelli che la Juventus è abituata a tenere siano replicabili due volte alla settimana. È un po' che non lo incrocio in studi televisivi, ma mi fa piacere salutare il professor Toni Damascelli. Ciao Toni. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che idea ti sei fatto della Juventus? Quale Juventus? Quella che non riesce probabilmente a giocare a 1000 all'ora ogni tre giorni. Ma secondo me questo è un alibi tipicamente nostrano, perché mi dovrei chiedere: le squadre che hanno vinto le coppe negli ultimi anni giocavano tre volte alla settimana, è un alibi che tiriamo fuori puntualmente per giustificare alcune prestazioni deludenti. La Juventus ha giocato una partita orrenda ieri, dopo averne giocato una buonissima quattro giorni prima, e non credo che in tre giorni si perda la condizione fisica. Si possono avere dei problemi di infortuni. È un classico alibi al quale ricorriamo per spiegare delle prestazioni modeste, se non addirittura fallimentari come quella di ieri sera. Ciò nonostante, la Juventus in una partita, in una serata negativa al massimo, è riuscita a non perdere. Sì. Agevolata dall'arbitro, con una serie di fortuite situazioni, io ritengo che il totale è 1-1. Uh-huh. E la Juventus vera non è quella di ieri sera, come la Juventus vera non è quella di sabato. Uh-huh. Però ieri sera, tanto per citare, il Bayern di Monaco ha perso non contro il Barcellona, il Manchester United stava perdendo e grazie a quello che qualche dirigente torinese chiama top player ha vinto 2-1. Il calcio per fortuna è questo, non è una scienza esatta. Non trovi che la Juventus abbia però bisogno di giocare in modo diverso, sia una squadra diversa dalle altre, una squadra che ha bisogno di tanta energia? Ora non cerchiamo alibi, però è qualcosa di diverso rispetto a... No, non sono d'accordo su questo. La Juventus ha bisogno di energia come tutti, ma ha bisogno di giocare a pallone, come si diceva una volta, normalmente, e se alcune scelte anche dell'allenatore, che ogni tanto sbaglia, perché non ci sono intoccabili anche a Torino, altrove forse sì... insistere su Lichtsteiner e su Vidal, ieri sera io avevo già espresso queste mie perplessità dopo la partita con la Roma. Lichtsteiner è in una condizione indecente, cioè non decente, e si è visto anche ieri sera. Non è che la Juventus ha giocato male per colpa di Vidal e di Lichtsteiner, però non si può permettere di rinunciare a due uomini che rappresentano, soprattutto sul fronte destro, una soluzione tattica. Dopodiché, ribadisco, ci sono anche gli avversari. Lo Shakhtar di Lucescu è la prima squadra brasiliana che gioca in Ucraina. Sei sicuro? E poi Lucescu aveva un esempio fresco di ciò che non si deve fare contro la Juventus, l'ha anche detto. Sì, va bene. Se voi accennate a Zeman, il discorso è che non è stato solo Zeman, perché la Juventus a Firenze aveva giocato una partita intelligente, sapendo di giocare contro una squadra molto motivata in un ambiente particolare, aveva giocato una partita di prudenza per non esporsi a una figuraccia. Ha rischiato, però non si è esposta come ha fatto la Roma. La presunzione dell'allenatore della Roma ha portato a quella disfatta, e non è la prima volta che capita, non soltanto con la Juventus, perché poi la cosa si è ripetuta più volte. Io ribadisco, la Juventus di ieri sera era inguardabile, così come la Juventus di sabato era un miraggio, sì, nel mezzo ci sta la verità. La Juventus è una squadra, è la squadra più forte del nostro campionato, non ci sono dubbi, è una squadra che a livello europeo può anche competere, perché le coppe di campioni, la Coppa dei Campioni, come ha dimostrato anche l'ultima edizione, è un torneo nella quale spesso il banco salta. Sì. I due Manchester l'anno scorso sono saltati sia in Champions sia in Euroleague. Sì, benissimo. L'ultima cosa, Tony, io mi prendo appunto sul campionato, mi prendo un sacco di insulti in napoletano, perché dico che comunque è un campionato finto, è un campionato in cui possiamo illuderci che ci possa essere una corsa a due, anche se me lo auguro naturalmente. No, non è un campionato finto, è un campionato vero, come è stato vero quello dell'Inter, del Milan, un campionato verissimo e verace, se vogliamo usare un aggettivo più partenopeo. Ma chiuso. Ma sì, c'è una squadra più forte. Il Napoli, attenzione, il Napoli ha una serie di congiunture astrali, se volete, se volete, che può portarlo a essere la zanzara, sto parlando con Radio 24, va bene, certo, la zanzara della stagione, per la Juventus, per la signora ovviamente, sì, sì, sì, sì, che non è ancora signora comunque. Signorina, grazie Tony. Prego a voi. Grazie, un abbraccio a Tony Damascelli. Prima di Michele da Venezia, 800 24 00 24, tutti convocati, chissà se siete d'accordo con questa analisi molto dura di Damascelli. Allora, un paio di voci, la prima è di Lucescu. È una squadra che non ha paura a giocare dappertutto, anche giocando contro Juventus. Abbiamo fatto una bella partita, abbiamo controllato il gioco, abbiamo avuto un possesso palla superiore e abbiamo fatto correre e perdere, perché sapevamo che è una squadra che corre tantissimo. Avevamo bisogno di farli correre senza pallone. Siamo riusciti, peccato che meritavamo di più, perché il rapporto di occasioni di gol credo che è stato nettamente a nostro favore. Sentiamo al volo anche Carrera. Sicuramente abbiamo meno tempo per lavorare, quindi questo è il problema. Cerchiamo di farlo. Sicuramente l'anno scorso avevamo molto più tempo. Sappiamo che il nostro girone ci sono due squadre e noi che ce la giochiamo fino alla fine. Il direttore Damascelli ha parlato di Juventus inguardabile, c'è chi, come Corriere dello Sport, titola invece punto d'oro, non so dove stia la verità, punto d'oro in casa con lo Shakhtar, non mi pare proprio. Michele. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo parlare un po' dell'ambiente che c'era ieri sera allo Juventus Stadium, dato che anche vedo che su internet se ne sta parlando molto. Sì. Di solito lo stadio è sempre pieno, fortunatamente, da quando è stato fatto questo nuovo stadio, è anche molto caloroso. Ieri invece è mancato il calore del tifo e anche c'è stata una diminuzione degli spettatori. Ho capito, Michele, però ne abbiamo parlato anche ieri, prima della partita. 40 sacchi, biglietto meno caro, 40 euro, non sono poca cosa di questi tempi. Quindi infatti. Si devono fare delle scelte, cioè o vai a vedere la Juventus in campionato perché magari sei abbonato, o vai a vedere la partita di grande richiamo in Champions League. Quindi era un evento pronosticato, previsto. Pieno a 20 euro, che avere 20.000 persone con 40 euro. Sono d'accordo. Mi fa piacere questo. Spero che anche la società Juve se ne renda conto. Insomma, basta fare trovarsi un accordo, insomma, un venirsi avanti. Ecco. Perché sarebbe brutto spegnere l'entusiasmo di uno stadio che è stato anche determinante certe volte. Sicuro. Sai che tra un po' invece pagheranno gli spettatori per andare a San Siro a vedere il derby, o magari si reinventano quella trovata di Tonnellotto che metteva gli spettatori finti, chi lo sa. Però dopo non ci si può stupire se c'è un calo degli spettatori e si attuano delle politiche così. No, quella dei soldi certamente. Il problema è che a Milano ci sono problemi, mi pare, caro Michele, di altra natura. Ragazzi, un derby senza di voi non ha senso. Ora più che mai abbiamo bisogno del vostro aiuto. Vi aspettiamo domenica sera per il derby, coloriamo lo stadio di rosso nero. Vi aspetto tutti a San Siro, per vincere abbiamo bisogno di voi. Stateci vicino che faremo una grandissima gara. Sì, ragazzi, qui non è questione di 40 sacchi, qui è questione di buttare la gente dentro lo stadio, ma quando il derby era il derby non c'era un biglietto neanche a pagarlo, se non dai bagarini, se non al mercato nero, se non scavalcando qualche volta i cancelli degli stadi. Adesso siamo agli appelli per riempire San Siro per il derby. Follia! Matteo Salvini, segretario nazionale della Lega, milanista duro, non so quanto incazzato. Grazie per l'invito, parecchio incazzato, perché io ho visto i derby dove pareggiavamo a tempo scaduto con Vinicio Verza, però non avevo una... Ce l'ho, perché mi prendeva, me lo ricordo in giro. Anch'io. Ecco, 2-2 a tempo scaduto, però avevo una società che non mi prendeva in giro, cosa che ho l'impressione accada da qualche tempo a questa parte. Quindi adesso siamo agli appelli, tutti dentro, vi prego veniteci a vedere. Drammatico, per un derby di Milano, appunto, il problema era trovare il biglietto. È bravo. Fino a poco tempo fa. È triste. Senta, ma perché si sente preso in giro dalla società? Perché le hanno dato Bojan al posto di Ibrahimovic e De Jong al posto di chi vuole lei e dicono che lo stesso bisogna vincere lo scudetto? Per questa ragione? Perché avrei preferito, come penso tutti i tifosi, che ci dicessero: ragazzi, non ce n'è più, per 1 o 2 anni puntiamo sui giovani e vediamo di fare partite da Milan e ovviamente con la classifica che ne conseguirà, e non mi puoi dire che ho portato De Jong, competiamo per lo scudetto. Io sono portato mio figlio che ha 9 anni per la prima volta nella sua vita a vedere una partita in serale per Milan Anderlecht, ed è stata una delle cose più tristi e più squallide che io ricordo negli ultimi anni. Berlusconi non ne ha o non ne vuole più mettere, ha diritto di farlo e di dirlo, ci ha fatto vincere tutto. Io ho vissuto un'adolescenza incredibile vincendo ovunque e comunque, quando non hai più voglia o non hai più soldi, passi la mano e non prendi in giro la gente. Ma mi sa che questo sia il pensiero che raccolgo da tutti i milanisti, VIP come lei oppure no, caro Matteo Salvini. Pensiero non è VIP, no, ma mi sembra sia il pensiero comune questo. Io ho cominciato a seguire il Milan in Serie B, io mi ricordo una sconfitta a Cesena per 3-2 che ci costò la Serie A, e va bene, ed era un Milan che mi piaceva e che seguivo con affetto anche in trasferta. A Berlusconi riconosco di averci fatto vincere tutti, perché Franco Baresi, Marco Van Basten su un campo da calcio non li vedremo per i prossimi anni. Il mio problema non è Ibrahimovic, chi se ne frega. Il mio problema è parlarsi chiaro. Facciamo crescere la primavera, bene. Non voglio vedere in campo i Traoré, i Constant, gli Emanuelson, i De Jong, gente che con la maglia del Milan non ha nulla a che fare. Senta, ma è vero che secondo lei Allegri sarebbe da cacciare, che lei ce l'ha con Allegri? Secondo me abbiamo perso lo scudetto l'anno scorso solo ed esclusivamente per colpa di Allegri, e non nascondendo appunto i problemi della società, ripeto, di cui ho appena parlato, non ci sono intoccabili, quindi io non so se Galliani ci metta le toppe e ci metta la faccia, so che è finito il tempo per queste cose. Allegri non penso abbia più il controllo benché minimo della situazione, non ha idee chiare, non ha polso, sarò esagerato, però questo momento non mi sembra che porti alcun valore aggiunto, anzi. A me sembra che il controllo della situazione al Milan in questo momento non ce l'abbia nessuno. Non ce l'abbia nessuno, ma nella società Milan uno scontro quanto meno reale, non lo so, come quello Allegri-Inzaghi non ci sarebbe mai stato, o se ci fosse stato non sarebbe mai emerso. Ripeto, mi si dica, io ho 39 anni, ho vinto Coppe dei Campioni e Campionati, mi si dica per 2 o 3 anni si fanno crescere dei ragazzi e poi chi vivrà vedrà. Non mi si dica che siamo una squadra competitiva, non mi si dica riempite San Siro per il derby. Anche la nostra tifoseria, signor, io quando avevo 16 anni andavo in curva, era la curva della Fossa dei Leoni, delle Brigate Rossonere, non voglio aprire il capitolo ultra per carità di Dio, però era un bel andare in curva. E adesso anche la nostra tifoseria rispecchia la società. A proposito di tifoseria, poi la saluto, leggo una notizia strana, che il Milan ha assunto Filippo Ferri, poliziotto condannato dopo i fatti della Diaz del G8, lo ha assunto come consulente per la sicurezza. Condannato per i fatti della Diaz? Cosa vi devo dire io? Bah, non lo so, anche niente, gliela do come notizia. Da milanista non entro, ma penso che sia la società che quando ti riduci a certe cose, quando dici non venderemo mai Ibra e Thiago e poi li vendi, quando fai la pantomima su Kakà, quando ti tieni patto con quello che è da rifondare, è da rifondare. Ma io lo riguarderei anche in Serie B, non mi interessa. Io ho cominciato a guardare Milan in Serie B e tornerei a seguirla in Serie B, però con correttezza. Penso che sia un spegnersi questo. Io poi ci sarò al derby, sì. Ci sarò, userò tutto il fiato che ho in gola, e piuttosto di veder perdere l'Inter farei carte false. però torniamo appunto ai derby di 20 anni fa, quando l'unico obiettivo stagionale del Milan era battere l'Inter con il gol di testa di Atley, stacco su Colovati. Si dica, se va bene quest'anno vinciamo il derby. Sì. Guardi, c'è qualcuno che ne vuole togliere la patria potestà perché porta il figlio a vedere il Milan. No, attenzione, poi gli insegno quello che non fa il papà, cioè a non dire parolacce, ad accontentarsi anche di uno 0-0 interno con l'Anderlecht, o se perdiamo 3-1 in casa l'importante per fare almeno un gol e divertirsi, che è l'esatto contrario della mia mentalità ultra, però fortunatamente il figlio è milanista, seppur a 9 anni, è pure leghista, quindi di più non posso. Grazie, buongiorno. Grazie a voi. Grazie Matteo Salvini, segretario nazionale della Lega, milanista duro e arrabbiato. Allora, risentiamo l'appello dei giocatori del Milan. Per favore, veniteci a vedere, c'è il derby. Ragazzi, un derby senza di voi non ha senso. Ora più che mai abbiamo bisogno del vostro aiuto. Vi aspettiamo domenica sera per il derby, coloriamo lo stadio di rosso nero. Vi aspetto tutti a San Siro, per vincere abbiamo bisogno di voi. Stateci vicino che faremo una grandissima gara. Vi fanno notare che parlano De Sciglio e Bonera a questo invito, non Kakà e Shevchenko. Ragazzi, non buttatemi in politica che non ne ho voglia, vi convoco lo stesso tutti quanti con le telefonate 800 24 00 24, con i messaggi 349 238 6666, su Twitter naturalmente, ma non buttatemi in politica che non ne ho voglia. Enrico da Varese. Sì, buongiorno. Poi facciamo anche un altro appello, altro appello più tardi, non calcistico, perché io sono molto preoccupato per il futuro di Michael Schumacher, nessuno lo vuole più, ha bisogno cosa fa lei, Enrico? Ma nella vita? Io lavoro per una multinazionale inglese, però non so se c'è bisogno di Schumacher dalle vostre parti. Posso provare a chiedere, però non le faccio mandare, le faccio avere il curriculum. Dica, Enrico. Ma innanzitutto volevo rispondere presente all'appello di Ambrosini e compagni domenica sera, anche se sono già un po' pentito di aver preso il biglietto dopo aver sentito questa cosa un po' triste. Sì. Ma al di là di questo, volevo fare una considerazione. In Inghilterra giocano con ritmi impressionanti, molte più partite che in Italia, e non fanno nemmeno vacanza natale, perché anzi quello è forse il periodo in cui giocano il maggior numero di partite, sempre in ottica di spettacolo. Però di turnover e di problemi nel giocare con grinta ogni 3 giorni e cose del genere non si sente mai parlare. È soltanto una fisima, una malattia tutta italiana, guardi, è una considerazione corretta, però bisogna ammettere che il circo italiano porta delle pressioni che in Inghilterra non ci sono. Non è un alibi di comodo, secondo me questa è la realtà. In Inghilterra si gioca più leggeri in qualunque partita, anche nelle grandi partite. Facciamo in tempo, Gabriele da Palermo? Sì subito. Dica. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, io volevo dire semplicemente una cosa. Secondo me la Juventus non c'ha il fisico per affrontare 2 competizioni come la Champions o il campionato, diciamo. Secondo me, io non vedo la Juventus come il vecchio Milan di una volta, che riusciva a vincere tutto. Perché non lo è? Perché non ha quella qualità, ma perché gioca in modo diverso. La Juventus l'anno scorso aveva una partita a settimana, andava in campo carica come una bomba e riusciva ad asfaltare sul piano fisico gli avversari. adesso gioca nello stesso modo, ha più qualità, più giocatori, ha allungato la squadra, anche se quelli che sono arrivati sono da testare e da verificare quanto la loro funzionalità a questo disegno. Per la Juventus mantenere quei ritmi ogni tre giorni, ritmi fisici, mi sembra molto difficile. Questo mi pare un problema vero. Per qualcuno anonimo meriterei solo uno sputo in faccia via SMS, per fortuna non arriva. C'è chi scrive invece: a 1000 euro al mese lo prendo io come pilota, Michael Schumacher naturalmente, Renault Master, furgone, Massimo da Udine. Per Schumi, se vuole io guido il camion ed è anche un Mercedes, se viene gratis qui a guidare ce n'è, ma gratis, eh? Alessandro da Napoli, buongiorno. Sì, ciao Carlo. Ciao. Senti, ne abbiamo bisogno qua di Schumacher, in effetti, si è rotto per il bandino. Non sappiamo come è aggiustato. Senti, comunque volevo fare una domanda sul derby. No, poi, aspetta che ti dico una cosa che ce l'ho sotto l'occhio, sennò poi mi sfugge. Siamo scivolati alle pendici del ranking UEFA e le nostre continuano ad andare, le nostre dell'Europa League continuano ad andare in gita. L'Inter andrà a Baku senza la squadra praticamente, l'impegno non sembrerebbe impossibile, però si parte senza Zanetti, Samuel, Cassano e Milito, oltre agli infortunati Kivu, Snyder, Palacio. Giocano i ragazzini Bianchetti, Benassi, Terrani, Garritano, tutta gente della primavera, e via andare. Dimmi, Alessandro. Niente, volevo chiedere per il derby se è proponibile la stessa formazione di domenica scorsa con la Fiorentina, oppure non so, passare una 4-4-2 semplice come contro il Torino ad esempio. Io opterei, cioè la mia idea è che nei momenti di difficoltà si debba giocare con la massima semplicità. Io credo però che verrà replicata l'ultima formazione vista. Intanto vediamo cosa succede stasera, che sono molto curioso. Marco da Treviso. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Io volevo semplicemente porre tre quesiti. Allora, aspetti che scrivo. Il primo non è tanto un quesito, più che altro è una considerazione. Aspetti che scrivo. Presumo che Zeman non sia un allenatore votato alle squadre come la Roma, sì, no, come le tra virgolette grandi, perché ha bisogno di squadre provinciali, ha bisogno di creare dei proseliti. Non dica provinciali che poi Stramaccioni si arrabbia, eh? No, guardi, io sono grande tifoso interista ed è meglio che Stramaccioni pensi due o tre secondi prima di parlare. Sì. E giusto per finire su Zeman è grande con il Foggia, è grande con il Pescara, ma con le squadre di alta medio classifica non funziona, non può creare proseliti tra i giocatori, è impossibile. Perché? La seconda riguarda proprio Stramaccioni. Perché non può creare proseliti tra i giocatori? Completi il suo pensiero. Perché non va bene per le grandi squadre Zeman? Eppure in passato ha allenato comunque Roma e Lazio, che erano squadre di buon livello, anche con buoni risultati, ma perché non può allenare queste squadre? Ascolti, ha allenato la Lazio, ha allenato altre squadre grandi, ma le faccio io la domanda: ha mai vinto uno scudetto? No. Non può allenare grandi squadre perché se guardiamo le tabelle di allenamento, se leggiamo qualche libro sulla tecnica calcistica che impone, un Francesco Totti, un giocatore di 28-30 anni già arrivato, nel momento in cui si approccia all'allenamento, alla mentalità che deve adottare in partita, è difficile che lo possa fare. Lo può fare con menti che può plasmare, con fisici che reggono determinati ritmi. È anche psicologica la questione, oltre che fisica. Io la vedo così. Sì, la vedo così, non così, però condivido buona parte di quanto le dice. Cioè, nel senso che Zeman è comunque un grande allenatore, un allenatore rivoluzionario, un allenatore molto molto carismatico, un allenatore comunicativo, e sono felice che sia tornato su un grande palcoscenico. È un allenatore integralista che ha bisogno di, ma lo ripeto tutti i giorni, che ha bisogno di un gruppo solido che lo segua ciecamente, senza farsi e senza fare troppe domande. Quindi non so se questo gruppo della Roma, che ha diverse componenti, sia in grado di seguire il suo allenatore in maniera così cieca e così votata alla, al suo calcio. Questo, questo. Poi volevo dire dell'altro, velocemente? Ah, guarda, sì, semplicemente due veloci considerazioni. La prima è che Stramaccioni deve, tra virgolette, non rispondere così ai giornalisti, perché dietro l'Inter c'è un progetto giovani, il progetto giovani ha bisogno di tempo e ha bisogno di forse di un pochino di umiltà nel momento in cui ci si approccia alle partite. Sono d'accordo. Non di Mourinho e deve esserne conscio. La terza considerazione è questa: io vorrei che lei mi desse un, mi facesse una classifica, e dopo le darò la mia personale, sui tre attaccanti più forti della storia. Secondo me è stato Ronaldo nei due anni in cui è stato all'Inter, è stato assolutamente inarrivabile. Sì. Né Pelé né Maradona né... Beh, no, Maradona sì. Ma, cioè, voglio dire, i primi due anni che è stato all'Inter, Ronaldo era chiaramente il più forte giocatore del mondo ed era a quei livelli lì, ed era a quei livelli lì, però è chiaro anche che a quei livelli lì, poveretto, bisogna restarci per tanti anni. Purtroppo le vere potenzialità di Ronaldo le abbiamo soltanto intraviste. Quanto alle classifiche, le lascio volentieri a voi ascoltatori. Ho avuto la fortuna, per ragioni anagrafiche, di vedere Van Basten, di vedere Maradona, di vedere questi giocatori che hanno fatto la storia del calcio. Poi le classifiche le lascio ai gusti di ciascuno. Massimo Bari. Buongiorno signor Carlo, volevo solo chiedere una conferma, se lo sa. Stamattina, stando su Facebook, ho letto una notizia riguardante il nuovo preparatore atletico della Juventus. Si parla di sospetto doping, che lei sappia qualcosa? No, mi sembra che su... Io poi tra l'altro l'ho pure potuto, guardi, verificare su YouTube. Sì, si, ma si, guardi, lasci stare, sì, ma lasci stare, lasci stare i social network, che secondo me non sono fonti granché attendibili. Ogni tanto esce qualche notizia valida, ma mi sembra una minima parte, insomma, quindi lascerei stare Facebook, lascerei stare YouTube, eccetera eccetera. Atteniamoci ai fatti, atteniamoci alle notizie verificate, perché si fa così, non si può andare con le accuse casuali fatte sui social network perché uno si sveglia la mattina, non ha niente da fare e scrive due stupidaggini. Enzo Ferrara, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Ma mi ha stimolato quanto ha detto adesso di Zema, un integralista e così via. Lo ricollegavo alla battuta che aveva fatto Vialli qualche settimana fa, difendendolo, tra virgolette, il paraculo. No, anche senza virgolette. Premetto che io sono un tifoso juventino, quindi diciamo poco oggettivo, no? Però sembra quasi che Zema, che sicuramente ha una competenza notevole, sia quasi a prescindere, cioè non tiene conto gli aspetti particolari, momentanei, di quali giocatori abbia, non abbia. Non so qual è il suo pensiero in merito. No, l'ascolto per radio, grazie. No, tiene conto dei giocatori che ha, certamente li sceglie e li allena in una certa maniera. Quello che dico io è che non c'entra niente col discorso di Vialli, naturalmente. Quello che dico io è che ha bisogno di un gruppo che lo segua in maniera compatta e cieca, perché allena in un modo estremamente particolare, gioca e prepara le partite in un modo estremamente particolare e richiede un certo integralismo come quello di Arrigo Sacchi. Tante volte ne abbiamo parlato anche con Andrea Zorzi a proposito di Velasco. Integralismo, settarismo, diceva Andrea Zorzi, cioè tu devi credere ciecamente in quello che fai e in quel progetto lì. Se cominciano a venirti dei dubbi, allora sorgono dei problemi. È chiaro che la Roma è una squadra molto eterogenea, in cui ci sono giovani che pronti a dare l'anima a Zeman e a chiunque li porti in paradiso, ci sono ovviamente senatori che rappresentano qualcosa, che magari qualche domanda se la pongono o la pongono all'allenatore o la pongono di fronte a partite inguardabili come quella giocata l'altra sera a Torino, perché quel quarto d'ora è stato una cosa da fin dell'orrore, credo, per tutti i romanisti. Ma caro Daniele, amico mio, che mi scrivi via SMS, pigli per il culo tutti, vuoi fare come ti pare, non accetti nessuna critica, spero ti tolgano al più presto quel microfono, leggilo per una volta. Ma lo leggo anche per due, non, le critiche le accetto, e come? se infatti mi chiami all'800240024 e sei convocato anche tu, criticami e litighiamo finché ne hai voglia, non c'è nessun problema. Allora, adesso voglio parlare, voglio lanciare un appello pubblico che ci sarà anche nei prossimi giorni. C'è chi potrebbe prenderlo sul camion, ma gratis, però c'è chi propone 1000 euro al mese per guidare un furgone Renault. Leo Turrini, buonasera. Benissimo, ciao. Ciao, come stai? Non c'è male, non c'è male. Una delle mie penne preferite sull'automobilismo. Sei troppo gentile. No, mi diverto a parlare con te più che altro, non sono gentile. Ti ringrazio, reciproco. Sono Senti, a tua disposizione. Io sono preoccupatissimo per Michael Schumacher. Sono veramente preoccupato. Allora, perché... Devo dire una cosa, mi sembra che noi siamo in onda sulla radio del Sole 24 Ore, no? Sì. Allora io vorrei citarti il mio compagno di banco del liceo, sì, che si chiama Simone Gradellini, che, sì, è dirigente sindacale di Confindustria, sì, a Modena, sì, e ti posso assicurare che lui avrebbe prepensionato Schumi già da molto tempo, nel senso che io ho un affetto straordinario per questo eptacampione del mondo, ho vissuto in prima persona le emozioni straordinarie che ha regalato a noi italiani al volante della Ferrari, però sinceramente mi mette molta tristezza il suo presente attuale. Sì. Guarda, posso dirti una cosa? Tu non hai bisogno di nessuno lì al giornale, non lo so, per guidare i camion, no, portare... Ti voglio dire una cosa differente. Aveva ragione Alex Zanardi, che è un mio carissimo amico. Sì. Non so se tu hai notato lunghissima è stata la carriera di Michelone, e lui anche quando era in Ferrari, se non c'erano gare, ad esempio nel periodo invernale, eccetera, usciva sempre la notizia che era andato a fare un'esibizione in moto, oppure che si era presentato su una pista da kart a sfidare dei bambini, no? E Zanardi mi disse, io mi sono convinto, caro Leo, che Schumi ha un problema, odia la moglie. Cioè lui, pur di non stare a casa con Corinne e i bambini, farebbe qualunque cosa. E io ti giuro che quando 3 anni fa, era fine 2009, sì, l'Epta campione del mondo annunciò che dopo un triennio di stop sarebbe rientrato nei Gran Premi al volante della Mercedes, ho immediatamente pensato, e l'ho anche scritto, devo dirti, sui miei giornali, sul mio blog, accidenti, ha ragione Zanardi, quest'uomo odia la vita in famiglia, odia lo stare a casa a dividere il tacchino con i parenti, la suocera e quello che è, e ha una necessità fisica di allontanarsi dalle mura domestiche e di adrenalina anche. E quindi il dottor Gradellini di Confindustria Modena lo avrebbe già mandato in pensione. Sì, però resta il fatto che, no, ti dico la verità, invece per me il giorno dell'annuncio del ritorno di Schumacher è stato un giorno triste, perché io a queste cose, cioè queste cose mi mettono i brividi. Guarda, ma in qualunque sport, in qualunque sport, sono allora, delle cose che non mi piacciono. All'epoca ho sostenuto questa tesi, che lui stava commettendo un errore, a prescindere dai risultati che avrebbe ottenuto, che poi purtroppo non ha avuto con la Mercedes, perché aveva tutto da perdere e nulla da guadagnare. Certo, cioè, grande coraggio. Un signore che dal 91 al 2006 ha vinto 91 Gran Premi, 7 mondiali, ha battuto tutti i record possibili e immaginabili, ha guadagnato, guarda che non sto scherzando, una cifra complessivamente non lontana dal miliardo di euro, perché per dirti, quando era l'asso amatissimo della Ferrari, Schumacher prendeva 100 milioni di dollari a stagione. Sì. Quindi fatte, metti anche che ne abbia speso un po' a rifare i portici della sua villa, sì, o la biada per i cavalli della signora che è una mazzola, ma insomma gli deve essere rimasto qualcosa da parte. E io dissi, ha tutto da perdere, nulla da guadagnare, perché torna? Se vince rifà una cosa che ha già fatto, se perde, come purtroppo sta accadendo oggi, soprattutto le si generazioni sporca più la giovani, leggenda, le giovani che non l'hanno visto al top, diranno, ma allora questo qui era un falso mito, i nostri genitori che ci parlavano di lui come di un eroe a quattro ruote, forse si erano sempre sistematicamente ubriacati di Lambrusco a pranzo della domenica prima del semaforo verde. Insomma, a me dispiace tantissimo. Guarda, sì, comunque guarda, io ti dico, sono sempre stato contrario a questi ritorni. Ammetto però che ci vuole un gran bel coraggio nel mettere in gioco proprio quello che tu dici, cioè nel mettere in gioco la tua aura, il tuo passato, la tua leggenda. Io glielo riconosco, ho parlato anche con lui qualche volta in questi 3 anni. Allora, lui una cosa va riconosciuta, Michelone, lui ha sempre detto: io considero la vita come una competizione. Nei 3 anni in cui sono stato in pensione, perché la Ferrari lo trattava benissimo, gli faceva fare il testimonial ovunque, lo usava per presentare le vetture di serie ai grandi saloni dell'automobile, eccetera, però chiaramente lui non era più un pilota. Lui ha detto: a me in quei 3 anni lì è mancata in maniera assoluta, totale, non rimediabile, l'idea stessa della sfida, del confronto su 4 ruote. Ma questo vale per tutti gli sportivi, anche quelli che giocano fino a 40 anni, però ogni tanto bisogna diventare grandi, scegliere delle altre sfide. Ma non vale solo per gli sportivi, secondo me vale per ognuno di noi. Cioè, se tu ci pensi, anche uno che fa il mestiere mio, tuo, del giornalista, magari quando hai 30-35 anni puoi dire: io voglio andare a fare il grande inviato, il servizio più bello, se parliamo di sport, un'Olimpiade o una finale del Mondiale di calcio. Se arrivi a 50 forse devi capire che magari c'è il trentenne che ne ha meno di anni, 20 in meno di te, che forse ha il diritto di farlo lui. Ecco, questa cosa, secondo me Schumi è rimasto un Peter Pan, un bambino, uno che non è mai voluto scappare dall'isola che non c'è, e alla fine ha trovato un capitano uncino nero che è Lewis Hamilton, no? Perché questa poi è la cosa, cioè che questi della Mercedes, che non toccano palla in Formula 1 perché in 3 anni hanno vinto un gran premio, a un certo punto gli hanno detto: guarda, come nella famosa canzone di Domenico Modugno, il vecchietto dove lo metto, o se vuoi le sorelle bandiera, fatti più in là, e hanno preso il capitano uncino nero, che è Lewis Hamilton, gli danno 75 milioni di euro, 7-5 così lo dica, per 3 anni, purché prende il posto del vecchio zio di Kerpen, il quale vedrai comunque che non smetterà, io te lo dico. Spero proprio che ti sbagli, ma so che è così. Spero che tu ti sbagli, ma so che... No, ci sono molte voci che lo vogliono in trattativa con la Sauber, con la Williams. Le ho sentite anch'io, ma spero siano fregnacce, che finalmente Peter Pan voli nella vita reale. Hai ragione, io devo chiudere il programma, però se un giorno passi da Milano e mi fai il regalo di venire a trovarmi dalle 2 alle 3 qui in studio, facciamo divertire un sacco di gente. 2 alle 4, chiedi un'ora supplettiva, io mi fermo. Un'ora supplettiva? Stare in tua compagnia, non so se Radio 24 ce la concederebbe, però ce la concede, guarda, la mia disponibilità è assoluta. Grazie, Leo, un abbraccio. Grazie a voi. Ciao. Siamo adesso alla Champions League. I numeri della Champions. E al quesito che ogni giorno faccio al malcapitato ascoltatore di turno, non si vince naturalmente niente, neanche in caso di risposta giusta. Michele, provincia di Bari, buongiorno. Buongiorno. Il giocatore più giovane ad aver giocato in Champions League, chi è? Chiedo scusa, non ho capito la domanda. Il più giovane giocatore ad aver giocato in Champions League, chi è? Penso Messi del Barcellona. No, Celestin Babayaro, difensore dell'Anderlecht, 24 novembre 94, tra 16 anni e 87 giorni. Doveva dire qualcos'altro? Siamo in chiusura. Sì, io volevo ritornare un attimino sul discorso di Zeman. Anche se allora, Michele, facciamo così, la convoco domani in apertura di programma, perché adesso devo chiudere, il discorso di Zeman sarebbe davvero troppo lungo. Quindi prendete nota, Michele, provincia di Bari, domani convocatissimo, se ne avrà voglia, dalle 2 alle 3 torniamo qui, Franco Piantanini in redazione, Filippo Aureggi in regia, ciao a tutti.